Mi hai visto adesso e non mi vedi più. Ti lascio soltanto qualche macchiolina di luce negli occhi. Ripasso ogni tanto di prima mattina in uno dei sogni interrotti. Dalla sveglia che non ti scapiglia quando ti sveglia, come facevo io, che non t'assomiglia quando sbadiglia. Gliel'hai già detto addio, che gli credi di nuovo ora che non credi più a me. Che gli credi di nuovo ora che non credi più a me. E tu che ci vieni? Pensi adesso, poi non mi pensi più. No che non ti manco è soltanto la china che ti sporca i fogli. Se fai come me, che scrivo a matita e cancelli se sbagli. Non ti ricordi più, non mi ricordi più. Già la nebbia, è scesa già la rabbia. E non è un caso se il cuore sta dentro una gabbia nel torace. E non è capace evadere, se lo vuoi devi entrare te. È stato un flash, adesso è boom boom boom. Soltanto boom boom boom e tu sei bla bla bla. È stato un flash, adesso è boom boom boom. Soltanto boom boom boom e tu sei bla bla bla. Luce prima del suono, luce prima del suono.